Essere e benessere di Nicoletta Carbone. 11.07, è arrivato il nostro momento. Prima del sommario, Filippa Oreggi regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Ciclismo Mon Amour. Dimmi che musica ti piace e ti dirò chi sei. Epatite B, novità nella diagnosi e nella terapia. La saliva disinfetta, vero o falso? Allora, oggi andiamo in bicicletta, la nostra scelta, e non è casuale considerando che da lunedì a Varese inizieranno i mondiali di ciclismo. D'altra parte però tutti noi ci sentiamo un po' ciclisti, no? La bici è così, è a portata di mano, è adatta a giovani e meno giovani e soprattutto ci permette di mantenere una buona forma fisica. Qui in studio con me, fedele compagno di viaggio del venerdì, il dottor Franco Confalonieri. Buongiorno, medico sportivo, responsabile della DDS di Settimo Milanese. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Lei è venuto in bici o a piedi? Non sono venuto in bici, anche se non mi dispiace la bicicletta, soprattutto la bicicletta in città. Io sono un fruitore della bicicletta in città, sono per una rivalutazione dell'utilizzo di questo mezzo anche in Italia, dove si usa abbastanza poco. È comoda, è piacevole e contribuisce in modo determinante al miglioramento della salute, dell'efficienza e della forma fisica. Ecco, questo credo che sia importante. I vantaggi legati all'utilizzo della bici in città sono molto maggiori degli svantaggi legati all'aria inquinata e agli eventuali danni a livello respiratorio e polmonare. Quindi io sono un amante della bicicletta in città fin da quando ero ragazzino. Ma non solo di quella, giusto? Ho provato anche la bicicletta fuori dalla città, ma mi bastava il falsopiano per provare alcune delle sofferenze e delle fatiche più spaventose della mia vita. C'è una grande differenza tra la bicicletta in pianura e la bicicletta in salita, questo è un tema importante. La bicicletta in pianura è a portata di tutti, in salita è molto più allenante, molto più stressante, molto più faticosa e non è proprio alla portata di tutti. Io per esempio la bicicletta in salita l'ho abbandonata. Lei l'ha abbandonata, sì. Ma per chi invece decidesse di non farlo e non volesse seguire il suo esempio, lei dei consigli li può dare? Assolutamente sì. Ecco, 824 0024, questo è il nostro numero verde per intervenire in diretta, i messaggi al 349 238 6666, c'è una canzone di Cocciante che diceva pedalare senza fretta, se la ricorda? Sì, assolutamente. La domenica mattina. Di gradualità, dottor Confalonieri, noi parleremo tra poco con un ospite d'eccezione perché ci sta raggiungendo anche Franco Ballerini, commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo Maschile, e con lui affronteremo questo tema. Con lei invece starei sulla domenica, dato che lei è il nostro amico del venerdì e ci accompagna, no, verso lungo la domenica. Lungo il weekend con consigli per farci muovere e quant'altro. Andiamo alla domenica, i ciclisti della domenica. Beh, sembra incredibile, ma in questa canzone di Cocciante ci sono due indicazioni assolutamente perfette dal punto di vista scientifico. La prima, pedalare senza fretta, e quindi l'idea di uscire con calma, con lentezza, dedicando molto tempo all'uscita in bicicletta, ma ad un'intensità assolutamente bassa, quindi dedicandoci anche alle pause, al panorama e proprio a un gusto della fatica, o meglio dell'esercizio fisico fatto senza stress. E poi la scelta della domenica mattina, cioè la scelta di una giornata in cui possiamo dedicare tempo all'esercizio fisico e nello specifico alla bicicletta senza stravolgere le nostre abitudini, i nostri ritmi. Quindi parlava di gradualità con una garanzia di continuità, che è l'altro elemento fondamentale. In teoria le domeniche sono a nostra disposizione per tutto l'anno. Dottor Confalonieri, io so che lei ci tiene a fare due o tre domande ai nostri ascoltatori da casa per attivare le loro telefonate. Il nostro numero verde sul ciclismo, abbiamo dei punti da sottolineare, delle domande da fare? Sì, innanzitutto come avete cominciato, che è sempre molto importante perché così perché? Andiamo... Ma è importante perché mi piacerebbe che la nostra trasmissione servisse sia a chi già fa sport sia a chi non sa come cominciare. E quindi partire dall'esempio, ascoltare le storie dei nostri ascoltatori, come e perché hanno cominciato ad andare in bicicletta, credo sia motivante. Poi quanto utilizzate la bicicletta, quindi quante volte a settimana, su quali percorsi, quante ore gli dedicate. E poi Siete del partito della bici da strada o siete del partito della mountain bike? Perché qua c'è una contrapposizione forte, vantaggi e svantaggi per entrambe queste tipologie di bicicletta e due partiti agguerriti, anche se poi molti passano come nella nostra politica da un partito all'altro. Sottile il dottor Confalonieri. 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Che musica ti piace? Bene, questa è una domanda che abbiamo fatto, ci siamo sentite fare spesso anche per rompere il ghiaccio, no? Dopo quella del segno zodiacale. E perché in effetti sapere, no, il genere di musica ascoltato può darci un po', almeno noi lo pensiamo, delle indicazioni della persona che ci sta di fronte. Bene, una ricerca, uno studio molto recente, è stato pubblicato nei giorni scorsi, dimostra quello che noi pensavamo, no? Intuitivamente. In linea con noi abbiamo la dottoressa Erika Sibillo, buongiorno, medico, esperta in musicoterapia, che è tornata a trovarci. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dottoressa Sibillo. Eccoci qua, questa è la nuova relazione tra musica e personalità che arriva proprio in questo mese di settembre e da dove può arrivare se non dall'Inghilterra, grazie all'intuizione di questo ricercatore molto originale, il professor Adrian North, che è docente di psicologia presso l'Università di Edimburgo. È una ricerca molto affascinante perché lo stesso North si è trovato di fronte a dei risultati che lui stesso ha definito significativi e sorprendenti. In che senso? Ecco, facciamo subito un esempio molto pratico. Voi pensate che per esempio chi ama la musica heavy metal, i Deep Purple per intenderci, cioè quel genere di musica rock dal ritmo aggressivo con delle sonorità potenti, queste voci molto gutturali, sia poi simile come personalità a ciò che ascolta? E qui ci sbagliamo tutti quanti, perché queste sono persone gentili, così definite dal professore, profondamente amanti della musica al pari di chi ama la musica classica, tanto che non ci sorprenderà sicuramente vedere o sapere. Quindi non solo l'abito non fa il monaco, no? Ma anche l'ascolto della musica, è il gusto musicale. Ma questo studio è stato fatto su 36.000 persone provenienti da ogni parte del mondo, a partire dai 16 anni di età fino ad oltranza, diciamo così, e a cui è stato chiesto di esprimersi su 104 differenti stili musicali. Senta, dottoressa Sibillo, quindi molto materiale, ci dia qualche anticipazione, così noi proviamo a vedere un po', di raccogliere qualche informazione, sapendo i gusti musicali delle persone a cui vogliamo bene, che frequentiamo. Perfetto, allora partiamo per esempio chi ascolta la musica classica, che diciamo, ascolto musica classica come sarò. Bene, sono persone che hanno un'alta autostima, sono persone creative, molto sicure di sé, un pochettino introverse, mentre se preferiamo ad esempio il jazz, il blues, saremo persone affabili, estroverse, anche noi creativi. Ma se prendiamo per esempio persone che ascoltano, non so, le canzoni di Bob Marley, siamo nel reggae, questa musica molto ritmata, molto così interessante, saremo creativi, estroversi, anche rilassati, però attenzione, è risultato che non saremo dei grandi lavoratori, insomma, non ci piace molto il lavoro duro. Se invece ascoltiamo musica country, musica western, saremo invece dei buoni lavoratori. Dottoressa Sibillo, io qua davanti a me, guardi, mi piacerebbe molto, perché io il dottor Confalonieri lo conosco da anni, però è sempre, cioè non l'ho ancora capito esattamente. Allora, dottor Confalonieri, tiri fuori il suo genere musicale, la dottoressa Sibillo prova a così a inquadrarla e così scopriamo qualcosa anche di più di lei, che ci dà tanti consigli per mantenerci in forma. Vediamo. Ecco, dottor Confalonieri, le chiedo subito, faccio due domande, è chiaro che non le posso chiedere le sue preferenze su 104 diverse musiche, ma per esempio a lei piace di più la musica jazz, la musica, la chart pop, cioè quelle musiche pop di cui ogni settimana esce la classifica sulle radio? Non so se è aggiornato il dottor Confalonieri, mi faccia delle domande semplici perché sa anche lui alla Ecco, allora senta, che musica ascolta, dottor Confalonieri? Ecco, c'è il problema di integrare ascoltare musiche molto diverse, perché potrei avere due grandi amori. Nell'ambito della musica classica le parlo dei Lieder di Schubert da una parte e di Beethoven dall'altra, soprattutto il Beethoven sinfonico. Poi però sono anche uno che non può fare a meno della sua dose di Guccini tutte le settimane, quindi di un cantautore italiano classico. Cos'è, una personalità multiforme? Direi che lei è un caso interessante per il professor Norte, nel senso che lui, il professore, sta ancora approfondendo la sua ricerca. Ecco, allora, dottoressa Sibillo, diamo al professor Norte l'indirizzo del dottor Confalonieri, così avrà materiale su cui studiare. Dottoressa Sibillo, grazie per essere stata con noi, ci sentiamo presto, buona giornata. Grazie anche a voi, buona giornata. Pronto soccorso. Bicicletta Mon Amour, questo è un po' il tema della puntata di oggi. Qua in studio con me ho il dottor Franco Confalonieri, pronto a darvi consigli, ma in linea con noi, come vi ho anticipato, è venuto a trovarci Franco Ballerini, commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo Italiana. Grazie, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, signor Ballerini, io vorrei approfittare di lei per dare un po' dei consigli per chi decidesse magari di avvicinarsi alla bici. Insomma, è comunque la bicicletta, tutti sappiamo andare in bici, no? Lo impariamo a fare da piccoli e quindi abbiamo una certa dimestichezza. Cosa sarà mai, no? Salire in sella. Poi le cose magari ci appassionano, ma si possono fare anche tanti errori. Allora, saliamo in sella con le sue raccomandazioni. Ma intanto, se uno decide di montare in bicicletta, vuol dire che ha avuto una bella idea, nel senso che ha scelto sicuramente un mezzo che riesce a dare, a parte il benessere fisico, ma anche quello psicologico. Il fatto di riuscire casomai a conquistare una salita e il fatto di volerla conquistare delle volte ti porta un po' a strafare, poi casomai torni a casa e sei talmente stanco che non la guardi più per una settimana, e quindi poi passi dall'amarla a odiarla in pochissimo tempo. Invece se uno casomai riesce proprio a gestire bene e a cercare di utilizzarla andando per gradi e cose mai le prime volte, non tutti i giorni, si riesce a sentire veramente quei miglioramenti che poi dopo diventa quella passione, quella voglia veramente di andare casomai un giorno a scalare lo Stelvio e farsi una foto con il passo dello Stelvio 2000 e passa metri. Wow, quanto tempo si deve uscire le prime volte e poi andiamo sempre in piano o ci improvvisiamo anche in salite? No, le prime volte devono essere proprio uscite, non so, massimo di un'oretta, ma proprio quando soprattutto in pianura e casomai andando un giorno sì e un giorno no, proprio per riuscire a recuperare un pochino lo sforzo. Delle volte il brutto è che delle volte un'ora non ti dà quella grande soddisfazione, perché un'ora in pianura passa anche veloce e quindi si tende invece a voler far di più. Invece presa per gradi così, un'ora, un giorno sì e un giorno no, ti porta poi nella seconda settimana e nella terza settimana a cominciare ad intensificare un pochino il lavoro, casomai inserendo una salita non troppo lunga ma diciamo con pendenze che possono andare al 4-5% una volta alla settimana, per poi dopo casomai dopo la terza settimana a cominciare anche ad intensificare per chi ha tempo le uscite in bici. Per un principiante è normale che diciamo che le prime volte sarebbe quasi meglio andare non dico da solo ma con qualcun altro che è sullo stesso piano, nel senso che non è troppo allenato, perché altrimenti nel contesto di andare insieme ad altri si tende a cercare l'agonismo e di lì in poi cominciare a conoscersi, soprattutto ascoltando proprio il cuore, ecco, è quella, il contagiri dell'essere umano è il cuore, riuscire a non tirargli troppo il collo a lui vuol dire poi arrivare a casa sicuramente con più energie. Grazie allora per i suoi consigli. Arrivederci. Dottor Confalonieri, vuole aggiungere qualcosa? Beh, innanzitutto devo dire che mi ha fatto un po' innamorare. Ecco, che non si arriva ad essere un commissario tecnico vincente in una nazionale a caso. Sono per una rivalutazione di chi si occupa di sport e in particolare di ciclismo. Credo che ci fosse veramente tanta competenza, tanta intelligenza nelle cose che ha detto Franco Ballerini, ed è una dimostrazione che alla fine, al di là di tante polemiche, strumentalizzazioni, che non si arriva ad occuparsi di sport ad alto livello per caso. Ci sono persone veramente in gamba che si occupano dei nostri atleti top. E poi una cosa molto importante che sottolineerei, il fatto per chi comincia, di conservarsi la voglia di fare qualcosa in più, che emergeva molto bene. Cioè, se la prima settimana esagero, mi ritrovo la seconda settimana senza motivazione. Allora cominciamo facendo magari un'oretta in pianura, un giorno sì, un giorno no, come diceva giustamente Ballerini. Abbiamo voglia di bicicletta. È un po' come nei rapporti interpersonali o nei rapporti con le donne, voglio banalizzare la cosa. Non c'è da conquistare tutto subito, ma si comincia con una chiacchierata, si passa ad un aperitivo, poi c'è la cena e poi tutto quello che verrà. Lo stesso deve essere con lo sport. E credo che questo sia un messaggio apparentemente banale, ma che se uno riuscisse a capire fino in fondo consentirebbe a tanti di impostare bene il proprio rapporto con l'attività fisica. Giovanni da Bergamo, buongiorno Giovanni. Buongiorno. Allora, io devo dirle che è un falso problema quello tra la bici da strada e la mountain bike. Nel sì. Senso, io ho tutte e due. Mm. E prevalentemente alla domenica e magari anche qualche volta in settimana. Naturalmente facendo ho iniziato molto piano, perché altrimenti veramente diventa stressante la cosa, e il fisico ovviamente si abitua a questo modo di fare sport, e pian piano uno aumenta mettere in chilometri, aumenta anche la fatica, però tutto sommato riesce a reggerla. È un falso problema, dicevo, perché la bici da strada serve in un certo modo, la mountain bike uno si va a fare i sentieri, si va a fare le piste. Infatti strade. Giovanni, perché rinunciare a uno all'altra? Meglio infatti, usarle tutte e due, no? Infatti, esattamente, ed è la cosa migliore, perché almeno... Si complementano, Giovanni, chiedevo al dottor Confalonieri, no? E la bici, la pedalata è sempre quella, però uno sforzo in mountain bike complementare aiuta a... Lo sforzo invece. Beh, direi che l'impegno muscolare non è esattamente lo stesso, quindi può è essere... leggermente diverso. Nella mountain bike lavoriamo soprattutto sulla frequenza di pedalata e quindi sulla frequenza di reclutamento delle fibre muscolari, mentre con la bici da strada c'è un maggior coinvolgimento del muscolo e una forza applicata maggiore. Quindi le due cose si integrano sicuramente bene, e direi che la mountain bike è ideale per approcciare la salita, soprattutto per chi è davvero un amatore agli inizi. Giovanni, prima di salutarle, vuole aggiungere qualcosa? Sì, devo dire una cosa. Sì. A me ha aiutato a smettere di fumare. Ecco. Ed è una cosa eccezionale. Grazie Giovanni per aver chiamato. Andiamo da Donatella, che ci chiama da Firenze, poi abbiamo Franco da Roma. Donatella, buongiorno. Salve, buongiorno. Io volevo un po' raccontarvi il mio approccio con la bicicletta. Ho praticamente iniziato a riusarla dopo tanti anni durante un viaggio a Roma, dove l'abbiamo scelta come mezzo per muoverci in città. Sì. E poi ho cominciato a usarla nel mio quotidiano. Quindi io vivo a Firenze, che è una città non grandissima, dove ci si muove facilmente, però piuttosto caotica dal punto di vista del traffico. E l'usare la bicicletta per andare al lavoro, per i miei spostamenti quotidiani, devo dire, mi ha veramente cambiato la vita. Risparmio di tempo, e poi penso anche di poter, lei abbia modo anche di poter guardare la città, no? Sotto, certo, ma anche le godersi. Persone, anche... Sì. È un altro ritmo, Donatella, quello che suggerivi un po' il dottor Confalonieri, che è forte sostenitore della bici in città. Sono un forte sostenitore proprio perché ci consente di fare attività fisica, di stare meglio con noi stessi, sia psicologicamente che organicamente, senza portare via spazio alle altre attività, anzi semmai recuperando dello spazio. E quindi noi praticamente uniamo l'utile al dilettevole, come si diceva una volta. Nel senso che ci divertiamo e non perdiamo tempo, quindi sono assolutamente favorevole a questa scelta. Grazie Donatella. Aggiungere, pronto? Sì, grazie Donatella, vuole aggiungere qualcosa? Sì, velocissima. Sì. Ho notato che le persone che vanno in bicicletta sorridono, hanno un viso più disteso, e quindi questo mi sembra un ottimo input per invitare tutti a farlo, si è sicuramente più tranquilli e più felici. La ringrazio per questa bella telefonata. Grazie Donatella. Franco da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei Nicoletta, grazie per lo spazio che mi potete dedicare. Io avrei una domanda per il dottor Confalonieri. Sì. Dunque, premetto che io vado in bici da strada, quindi con un percorso misto, un paio di volte a settimana per un paio d'ore circa, però mi capita, diciamo saltuariamente, di avere dei crampi muscolari magari dopo essere andato in bici o il giorno successivo. Vorrei sapere se c'è un modo per curarli, diciamo così, oppure per evitarli soprattutto. Grazie Franco. Problema crampi? Qui possono esserci due problematiche alla base di questa difficoltà. La prima è una scarsa idratazione, quindi che comunque non beva e non si integri abbastanza prima e durante l'attività. La seconda è che ci sia un errore nella posizione in bicicletta e quindi nella modalità di reclutamento dei muscoli, modificando la posizione in bicicletta, l'assetto della colonna e l'utilizzo dei muscoli della gamba, potrebbe ridurre la problematica dei crampi. E prima di continuare a parlare dell'argomento del giorno, oggi con il dottor Confalonieri che è qui in studio con me, stiamo facendo un viaggio nel mondo del ciclismo. Aspetto le vostre chiamate all'800 24 0024. Voglio darvi due notizie, una buona e una cattiva. Togliamoci quella cattiva. Il virus dell'epatite B si è risvegliato e torna a fare paura. Infatti, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia sono circa 900.000 i casi di epatite e solo 20.000 sono in terapia, quindi c'è un sommerso, persone che sono malate, non sanno di esserlo o non si curano. Ma come vi anticipavo c'è una buona notizia, infatti oggi c'è una speranza in più, i medici hanno individuato esattamente il problema, hanno capito tante cose in più dell'epatite B e soprattutto riescono a scovare il virus con esami più semplici. Ne parliamo oggi con il professor Antonio Craxi, professore di gastroenterologia e direttore dell'unità operativa di gastroenterologia all'Università di Palermo. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti voi. Professore, parliamo invece degli esami oggi a disposizione per fare diagnosi. Abbiamo due strumenti importanti e nuovi. Da un lato la possibilità di misurare direttamente il grado di replicazione dell'infezione con un esame di sangue, la ricerca del DNA del virus B. Un esame che ci dà informazioni sia sul grado di attività della malattia e quindi sulla sua possibile evoluzione, sia sulla contagiosità della persona che è portatore di epatite B. Abbiamo anche un altro esame importante nel misurare il grado di fibrosi, cioè il grado di evoluzione verso le cicatrici, verso la cirrosi cui è giunta la malattia, il fibroscan, un test non invasivo, simile all'ecografia, disponibile per ora già presso alcuni centri ospedalieri che si diffonderà ulteriormente, un esame importante che ci consente di evitare spesso una biopsia epatica non a tutti gradita e in ogni caso non sceva da potenziali pericoli. Professore, al momento siete capaci di curare un malato di epatite B, di sbarazzarvi del virus? Purtroppo sbarazzarcene nel senso testuale della parola, cioè cancellarlo dall'organismo, non riusciamo a farlo perché il virus si integra nel genoma delle cellule umane e quindi non può essere eliminato. Siamo però diventati capaci di controllare la replicazione del virus. Se vogliamo levare il pedale dall'acceleratore che fa girare il virus sempre più veloce e induce il danno, i farmaci che fanno un effetto del genere, i cosiddetti analoghi nucleosidici e nucleotidici, sono ormai disponibili numerosi sul mercato. L'ultimo arrivato fra questi, la telbivudina, risulta particolarmente efficace nell'inibire rapidamente e profondamente la replicazione del virus. La disponibilità di tutti questi farmaci, che possono essere usati in sequenza qualora compaiano delle resistenze a uno di loro, ci consente di programmare terapie a tempo praticamente indefinito, un po' come si fa oggi per esempio per l'HIV, per il virus dell'AIDS. Quindi terapie che, non cancellando il virus perché purtroppo non possiamo farlo, consentono però di portare a tempo indefinito la remissione della malattia. Professor Craxi, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a lei. E noi torniamo in sella, affianco a noi il dottor Franco Confalonieri, pronto a darci indicazioni e consigli. Marcello da Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Complimenti per la trasmissione. Volevo sapere un'informazione dal dottor Confalonieri, per cortesia. Io abito un po' in collina, diciamo un pochino fuori Livorno, quindi amo molto la bicicletta, ma ogni volta che parto da casa sono salite dell'altro mondo, nel senso immagino. Me, per la mia età, 47 anni, inizio da poco ad andare in bicicletta. Volevo sapere se è il caso di ogni anno, pure una diciamo periodicamente di fare un elettrocardiogramma sotto sforzo, come fanno ad esempio ai professionisti, quindi fare una visita accuratissima, oppure basta solamente una visita del dottore di famiglia, sì. Grazie Marcello, bella domanda, dottor Confalonieri. Ma in linea di massima sì, direi che prima di iniziare la prima volta e poi ogni anno sarebbe utile fare una valutazione della funzionalità cardiaca, quindi anche attraverso un elettrocardiogramma, una valutazione della funzionalità respiratoria ed una valutazione dei fattori di rischio a livello strutturale, quindi ginocchia, caviglie, colonna, per evitare che lo sport, da qualcosa che migliora il nostro livello di efficienza e di benessere, diventi qualcosa che comporti delle patologie da sovraccarico. Quindi sicuramente sì. Abbiamo in linea con noi anche Enzo, che ci chiama da Firenze, 824 0024. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua per la sua domanda. Sì, volevo domandare al professore, appunto, siccome io sono appassionato di bicicletta, anche se ci vado saltuariamente. Sì. Però siccome c'è una ipertrofia prostatica benigna, volevo sapere dal professore se è vero che facendo un uso più frequente può danneggiare o peggiorare la situazione. Grazie Enzo. Dottor Confalonieri, prostata e sellino e biciclette, è un argomento che torna spesso anche nelle trasmissioni in cui ci occupiamo di prostata. Dottore, lei che dice? Beh, indubbiamente i sellini nuova generazione, quelli che prevedono dei buchi appositi per ridurre il contatto con la zona pelvica e quindi con la prostata, hanno migliorato un po' la situazione, però indubbiamente il mio consiglio, se uno ha problematiche a livello prostatico, è di scegliere un'attività sportiva alternativa, o se è molto appassionato di bicicletta, di integrare il ciclismo con un'altra attività, perché indubbiamente il microtraumatismo cronico da contatto tra la zona pelvica e il sellino rischia di peggiorare le patologie a livello prostatico. Dario da Milano, buongiorno. Buongiorno, allora sono un po' ancora emozionato a ripensare come mi sono avvicinato alla bicicletta. Sì, come è andata? È andata che ad aprile del 2000 veni investito da un'automobile sulle strisce nel 2000 appunto ad aprile in centro proprio a Milano, e poi fortunatamente me la cavai solo con un trauma cranico e con una frattura del midiatto tibiale. Beh, insomma abbastanza fortunato, sì. Devo dire, perché persi anche conoscenza e dopo qualche mese mi ritrovai con questa gambettina molto sottile, che non avevo mai avuto traumi fino allora in vita mia, e la cosa mi turbò molto. Ad agosto mi ritrovai in montagna in motocicletta con dei miei amici su una montagna vicino a Milano, sopra Bergamo, il Passo di Valcava, che è una montagna molto ambita. Ah, deve piacere molto al dottor Confalonieri, perché si è illuminato. È dove passo le mie vacanze, quindi Dario, conoscere qualcuno che va a Valcava mi ha illuminato. Va bene, poi non so, Dario, chiami se vuole chiamare poi il dottor Confalonieri per gite in bici. Allora, era in montagna e che succede? Era in montagna e avevo ancora una motocicletta che si accendeva a pedale. E, umiliato assolutamente, non riuscii a accenderla perché non avevo forza nella mia gamba. E dovettero accendermi dai miei amici per ripartire da lì. In quel momento, un po' umiliato per quelle mie condizioni, un po' orgoglioso vedendo quel panorama spettacolare, pensai: l'anno prossimo sarò qui sopra in bicicletta. E ce l'ha fatta. Ce la feci. Incominciai a settembre. Fantastico. Con lo spinning, a dicembre con una mountain bike che avevo acquistato i primi giri in Liguria, dove si può pedalare nella stagione invernale. A marzo il mio primo emozionantissimo giro con la bici da corsa, che comprai da un amico, e mi ricordo ancora che quella notte era talmente emozionato che dormii solo 2 ore, ma riuscii a pedalare 3 ore di seguito il mio primo giro in bici da corsa. E poi ad agosto, finalmente, dell'anno dopo, nel giro di 12 mesi, ero lassù sul passo di Valcava. E ce l'aveva fatta. Grazie Dario, ci ha fatto un po' sognare. Sì, è un'esperienza molto bella e con dei contenuti anche interessanti. Innanzitutto la bici o il ciclismo come elementi per la riabilitazione, e sicuramente la bici è straordinaria come mezzo per la riabilitazione, perché consente di lavorare a livello muscolare senza sovraccarichi da impatto a livello articolare. quindi raccomandata in moltissime situazioni in cui c'è da recuperare il tono muscolare e la funzionalità articolare. E poi la scelta progressiva fatta da Dario, quindi lo spinning, cioè la bici, io preferisco la cicletta allo spinning, comunque il concetto ci sta, la bici al chiuso nella cattiva stagione, benissimo, poi la mountain bike in primavera, quindi un approccio morbido sfruttando anche climi più temperati, infine la bici da strada, iniziando con le 3 ore in pianura e la grande emozione per finire su una salita come quella di Valcava, che è impegnativa per un'auto, figuriamoci per un ciclista. Quindi Dario davvero è un po' il nostro eroe di oggi. Ha fatto qualcosa di grande, sì. Io gioco a calcetto e vorrei integrare l'attività fisica con un paio d'ore di mountain bike alla settimana. Si lega bene la mountain bike al calcetto? Pedala, pedala, Dottor allora, Confalonieri. Dobbiamo rispondere al nostro ascoltatore. Io sono d'accordissimo con l'integrazione calcetto-mountain bike. Mm. Calcetto è uno sport di rapidità, di velocità, di coordinazione, con forti sovraccarichi a livello articolare. La mountain bike è uno sport ciclico, migliora la resistenza aerobica con ridotto sovraccarico a livello articolare. Si integrano perfettamente. E altre attività che si integrano alla bici? Tutti gli sport di squadra, mm-hmm, sicuramente, e poi gli sport che prevedono un impiego prevalente della muscolatura della parte superiore, quindi il nuoto e gli sport del remo. Perché chi può uscire solo la domenica durante la, esatto, settimana può utilizzare, no? Ma anche classicamente uno va in palestra e lavora prevalentemente sulla parte superiore, quindi sia con le macchine sia col remo ergometro, e poi durante il weekend va in bicicletta, perfetto. Perfetto. Fabio da Verona, 824-0024, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo chiedere, sentivo prima un ascoltatore, parlava di come evitare i crampi muscolari. Ce li anche, vengono anche a lei, Fabio? No, non tanto quello, però il dottore rispondeva parlando di una postura corretta. Ecco, più che altro mi interessa per la postura per quanto riguarda la colonna spina dorsale, insomma, sì, per avere quale sarebbe la postura corretta per non avere inconvenienti. Grazie Fabio, dottor Confalonieri. Allora, la postura corretta, volendo banalizzare molto il discorso, è quello schiena dritta e pedalare, cioè più la schiena è rettilinea, minore sovraccarico da compressione c'è a livello dei dischi intervertebrali e quindi eventualmente minori rischi ci sono di un sovraccarico a livello delle radici nervose. Però è chiaro che poi la bicicletta e la posizione vanno adattati al biotipo di ciascuno, quindi non esiste una regola generale, ma bisogna studiare la propria posizione sulla propria bicicletta. Vincenzo da Roma, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Senti, telefonavo per portare quella che era stata la mia esperienza che mi ha portato alla bicicletta. Sì. La considerazione che con la bicicletta da strada sì, posso andare sulla strada, però con la mountain bike posso andare laddove non posso andare con la bicicletta da strada. Fatto sta che alcuni mesi ho preso una bicicletta da un amico, poi vabbè, ci ho montato vari accessori e praticamente trovo molto divertente almeno una volta a settimana fare un'uscita in mountain bike. Sì, ma la maggior parte è sempre su strada perché stando a Roma sì, riesco a raggiungere Villada in un quarto d'ora e dopodiché me la girotto quanta dentro in mountain bike, appunto in posti in cui la bicicletta da strada non ci avrebbe nessunissima possibilità e oltre ciò durante le vacanze estive sono andato a trovare uno zio che sta in Umbria, sì, e sono partito con la bicicletta caricata sopra un pullman. Quindi nel momento in cui sono uscito dopo ho cominciato a utilizzare la bicicletta. Avevi tutta l'Umbria a disposizione, già vive a Roma e quindi a Villa Ada. Adesso poi lo zio in Umbria, Vincenzo, un uomo fortunato e un uomo che pedala e fa le scelte giuste. Grazie Vincenzo. Sì, una piccolissima considerazione, sicuramente per chi privilegia il contatto con la natura, in particolare la natura estrema, boschi, colline, dislivelli o quant'altro, la mountain bike è da preferire alla bici da strada. Per chi privilegia il gusto della velocità e della fatica fisica, forse la bici da strada. Chissà che cosa ha scelto tra le due Liliana che ci chiama da Verona. che forse è caduta. Allora, dottor Confalonieri, però abbiamo visto che del nostro partiti sono abbastanza. Sì, soprattutto si è affermato il partito, insomma, di chi le integra. Un po' e un po'. E non è male. È tornata Liliana da Verona. Buongiorno. Sì. Buongiorno Liliana. Buongiorno Nicoletta. Da strada buongiorno, o mountain dottore. Bike, Liliana? Nicoletta, mi senti? Sì. Nicoletta diceva prima, Fabio è il nostro eroe della mattina, invece io mi sento è una eroina perché... Ma c'è Liliana, vabbè. Dimmi perché, perché noi possiamo avere un eroe e un'eroina, certo. Liliana, bravissima. Perché ti io candidi? Io questi giorni sono eroina e vorrei condividere anche con voi, perché la mia prima, a 42 anni, la mia prima esperienza con la bici c'è stata, penso, 10 giorni fa. Dai. Allora mi sentivo un po' marziana, cioè ero una specie rara, perché quando dicevo ai miei amici io non so andare in bici mi guardavano male tutti, ma come? Ma... E invece era vero, a 42 anni non ho mai avuto una bici, Gesù Bambino non mi ha mai portato una bici, comunque cercavo di difendermi e di far passare un pochino questo mio disagio. Io provengo dal Sud America, sì. Quando qualcuno mi diceva ma non sai andare in bici, ma come fai? Allora io mi difendevo, dicevo, ma tu sai ballare la salsa? Brava Liliana, questo. E adesso Liliana, oltre a saper ballare la salsa, sa anche andare in bici. Supereroina della nostra giornata, anzi Liliana ti ringrazio di aver condiviso con noi questa bella esperienza. Dottor Confalonieri, quindi un applauso a Liliana. Un applauso a Liliana, con... una considerazione un po' più banale. La bici tecnicamente non è difficile da imparare, questo è un grande vantaggio di questo sport. Quindi possiamo farla tutti, possiamo cominciare in qualsiasi momento. Avrò molte più difficoltà io a imparare la salsa di quelle che ha avuto Liliana e iniziare ad andare in bicicletta. Questa è la mia amara considerazione Ma finale. Non è mai troppo tardi. Grazie al dottor Confalonieri che torna a trovarci venerdì prossimo. E dopo tanto pedalare fermiamoci perché parliamo di saliva. Uno studio interessante olandese conferma quello che forse intuitivamente già sapevamo, e cioè che la saliva abbia delle proprietà cicatrizzanti oltre che disinfettanti. Lo studio è citato nel numero in edicola di Star Bene e noi ne parliamo con la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore della microbiologia clinica presso il Polo Universitario Luigi Sacco di Milano. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Che di saliva ne sa molto. Per quanto concerne la mia specialità, sicuramente la saliva, e da tempo lo sappiamo, ha un'attività antibatterica notevole, e questa attività la svolge giorno dopo giorno nella nostra bocca. La nostra bocca è un incubatore pieno di batteri e di virus, e il lisozima che è presente nella saliva modera questa presenza e ci preserva anche da infezioni che possono provenire dall'esterno. Dobbiamo fare un distinguo però quando parliamo di saliva. La saliva appena secreta dalle ghiandole salivari che goccia dopo goccia la riversano nella nostra bocca per renderla sempre umida, rende umida le mucose, le mantiene in buona vita. Ecco, questa saliva è completamente sterile e ricca di quelle proprietà di cui parlavamo. Però poi la saliva durante, diciamo, il suo percorso giornaliero viene a contatto con quelle secrezioni che vengono dal nostro apparato respiratorio. Allora, nel caso dovessimo avere delle infezioni all'apparato respiratorio, la bronchite, la tubercolosi, eccetera, allora la saliva cambia connotato. L'isolizima non è sufficiente ad esplicare, a garantire la sterilità, e la saliva può diventare un mezzo di infezione. Buona giornata alla professoressa Gismondo, buona giornata a voi che ci avete seguito. Appuntamento domani, vi aspetto. Questa casa non è un albergo. Un saluto da Nicoletta Carbone.